di Dario Ricci. Scivolata Zambrotta, Pirlo in profondità per Baggio, punizione regolare, Baggio, attenzione, porta vuota, Baggio, rete! E Roberto Baggio fa ammutolire il Delle Alpi, 1-1. Un lancio lunghissimo, dietro le spalle dei difensori della Juventus, e lui con palla in entrata dietro le spalle fa un controllo morbido a seguire, e il portiere esce, finta, controfinta, lo mette a culo per terra, scusate la parola, appoggia la palla con una naturalezza, con una facilità estrema. Ancora Vialli, insiste nella sua azione mentre vengono su gli altri giocatori della Juventus. Müller alla buona, vediamo Baggio che incrocia il tiro e la palla che colpisce il palo finisce in gol, 3-1, grandissima giocata di Roberto Baggio che ha incrociato e ha messo la palla nell'angolino laddove nulla poteva il portiere Klose. Ancora da un'azione di Vialli, ancora un gol di Roberto Baggio. Per molti è stato uno dei più grandi campioni della storia del calcio e non solo italiano. Per tutti è stato il Divin Codino. Basta questo per dire che oggi protagonista di Olimpia è Roberto Baggio. Se ne è parlato tanto in questi tempi, grazie anche sia alla ricorrenza del suo 53esimo compleanno, sia allo splendido documentario realizzato su di lui da Matteo Marani di Sky Sport, e se ne sta parlando ancora e per sempre se ne parlerà, perché Baggio è sempre Baggio, anche grazie a questo bel libro che ho qui tra le mani, Roberto Baggio, Avevo solo un pensiero. Ne parliamo fra poco con l'autore, ma intanto saluto al mio fianco, ben ritrovato qui a Olimpia, Stefano Tirelli. Grazie Dario e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano, mental coach, preparatore atletico di tanti campioni dello sport italiano, ben ritrovato caro Stefano, e ben trovato a Olimpia, la città dello sport, all'autore di Roberto Baggio, Avevo solo un pensiero, edito da 16 and the Second, Stefano Piri. Ciao, grazie per l'invito. Qui insieme quindi a due Stefani per parlare di un grandissimo campione del nostro calcio devo dire Stefano Piri. Ecco, come nasce questo libro? Perché hai deciso proprio quest'anno di dedicare questo ritratto, questo saggio al Divin Codino? Beh, quest'anno intanto per cominciare è l'anniversario di Italia 90, che è diciamo il momento di snodo fondamentale della carriera di Baggio, e anche un po' un momento di snodo secondo me nella storia del calcio italiano e se vogliamo anche del paese. Nel libro io ho un po' identificato gli anni 80 in cui Baggio diventa grande nella Fiorentina, in cui il suo talento esplode, come un momento ancora dell'innocenza. Baggio dirà: è il momento in cui avete visto il Baggio più puro. E poi c'è il trasferimento alla Juve, c'è Italia 90, tutto cambia per lui, lui diventa un talento riconosciuto a livello mondiale, esplode, addirittura Madonna in concerto a Roma indossa la sua maglietta, e quindi la sua carriera e la sua vita cambiano completamente. Stefano Tirelli, hai avuto qualche incrocio nella tua storia con Baggio? So che quando ti ho invitato per questa puntata mi hai risposto entusiasta, diciamo, è uno dei campioni che ho più seguito e più studiato, no? Sì, è un campione sicuramente per me affascinante, l'ho incontrato una volta velocemente direi a Trento, e in quell'occasione ebbi modo di parlare un poco con lui rispetto alle tematiche a lui tanto care, quindi l'aspetto mentale ma soprattutto l'aspetto spirituale, e questo è un argomento che in qualche modo ci unisce, nel senso che lo sport è visto da entrambi come un mezzo per esprimere il meglio di sé, non solo a livello egoistico riferito, ma anche e soprattutto a livello altruistico, tant'è che una delle sue maggiori fonti di felicità è quello di fare il gol, non tanto per sé. Quando lui diceva nelle interviste, diceva: io non amo tanto fare il gol per me, ma so che in quel momento sto rendendo felici magari milioni di persone, questo per me è il massimo della gioia. Eh sì, insomma, ne parliamo poi ancora al presente come calciatore, perché davvero ce l'abbiamo talmente negli occhi i suoi gol che vorremmo vederli magari ancora già stasera e veramente non te ne stancavi mai. Stefano Piri, domanda banalissima ma da fare. Il gol di Baggio che più ti è rimasto negli occhi e nel cuore? Beh, guarda, ce ne sono tantissimi, però a costo di essere banale io dico quello segnato, quello insomma famosissimo, segnato alla Juventus con la maglia del Brescia nel 2001, quando lui riceve la verticalizzazione di Andrea Pirlo, un giocatore che lui peraltro involontariamente cambia la carriera, perché Pirlo arriva a Brescia come trequartista, ma trequartista c'è già Baggio, e quindi Mazzone è il primo che ha l'idea di mettere Pirlo, diciamo, più indietro in cabina di regia, che poi è un'intuizione che cambierà la storia del calcio italiano. E quindi c'è questa verticalizzazione straordinaria di Pirlo e poi questa cosa incredibile che fa Baggio a tu per tu con Van der Sar, questo controllo in cui fa addormentare il pallone sul collo del piede e allo stesso tempo lo sposta, non lasciando a Van der Sar lo spazio per intervenire, e poi appoggia la palla in rete. Io credo che dopo tutti gli infortuni, dopo tutto quello che ha passato, dopo che l'estate prima si è allenato da solo, da svincolato, perché il calcio italiano non lo vuole più, si è ritrovato nel campetto di casa sua col suo preparatore a fare a gara chi colpiva più volte la traversa nel campetto di Caldogno, e lui poi segna questo gol veramente straordinario che è un po' la chiusura del cerchio. Sì. E che tra l'altro fu anche negativamente decisivo per la Juventus. Sì, fu decisivo perché poi il campionato lo vinse la Roma, no? E quindi quel pareggio casalingo col Brescia. Invece il tuo gol di Baggio del cuore, Stefano Tirelli? No, effettivamente è difficile da inquadrare quello che è il più bello, il più decisivo. Secondo me lui ha incarnato una dote importantissima, quella di farsi trovare sempre pronto, ma soprattutto quando veniva chiamato, perché questo era il suo problema, e in questo senso quello era la grande sfida di Roberto Baggio, era quella di doversi far trovare pronto rispetto a tanti allenatori che per diversi motivi spesso non lo consideravano un titolare a tutti gli effetti. Insomma. E questo in realtà secondo me la vedo da un punto di vista un pochino più magico, se vogliamo, è stato forse un regalo dal cielo, nel senso che ha detto: guarda, distribuiamo la bellezza e la magia di Baggio in più città, così che non sia solo di una stessa città. Eh sì, davvero, patrimonio nazionale e internazionale. Io ricordo ad esempio il gol con la Nigeria ai mondiali di USA 94, incredibile nella sua semplicità, no? Quel tocco precisissimo che ci regalò il passaggio del turno in una giornata davvero paradossale, emozionante della storia del calcio. E poi un altro gol che forse Stefano Piri mi aiuterà a ricordare, in una finale di Coppa UEFA tra Juventus e Borussia Dortmund, a Dortmund, lui che tocca un pallone morbidissimamente, questa palla che va a incocciare sul secondo palo ed entra in porta dopo pochi minuti dalla gara, no Stefano, se non ricordo male? Sì, quello è forse il momento più bello della sua carriera nella Juventus, degli anni passati alla Juventus, e segna questo gol veramente da un'angolazione molto difficile, girandosi su se stesso, la palla lenta si infila esattamente nell'unico spiraglio che consente di superare sia il portiere che il difensore del Borussia Dortmund, e poi è il primo grande trofeo internazionale che Baggio vince, e davvero lì trascina la Juventus praticamente da solo, ecco. Stefano, però fammi ti fare una domanda quasi a trabocchetto: c'è anche un gol mancato nella carriera di Baggio che secondo me entra nella sua storia? Sì. Qual è secondo te? Quello è altrettanto potente, diciamo, nella memoria collettiva, il gol mancato contro la Francia ai supplementari. Quando lui mondiali del 98, ricordiamolo. Del 98, e l'Italia, secondo me, avrebbe vinto i mondiali a quel punto, perché la Francia era l'altra squadra che infatti poi va a vincere. E in quel momento lì, in quel quarto di finale, Cesare Maldini preferisce Alessandro Del Piero, che è esploso in quel momento, il grande talento del calcio italiano, ma non è in grande condizione. Buona parte della partita la gioca Del Piero, poi finalmente entra Baggio, ne combina di tutti i colori, gioca un grande finale di partita, e poi ai supplementari gli arriva questa verticalizzazione, se non sbaglio, di Albertini. Lui entra in area di rigore e poi i commentatori all'epoca dissero: ha calciato troppo bene. Perché essendo da una posizione molto angolata, la prende di collo pieno, la palla supera Barthez, ma incredibilmente sfuma da quasi l'illusione ottica del gol, e invece al di là del palo finisce fuori. Perdiamo ai rigori con il famoso errore di Biagio, che calcia sulle traverse. Incredibile, mi ha fatto rivenire in mente quella partita, la vidi a casa mia che avevo invitato gli amici, era appunto periodo estivo. E quello sarebbe stato il golden goal. Il golden goal, e tra l'altro avrebbe cambiato assolutamente la storia di quel mondiale, la storia del calcio italiano, la storia di Roberto Baggio. Ma siamo già andati sulla Marcord, allora prendiamoci qualche istante di pausa e poi ritorniamo a Olimpia, perché abbiamo, caro Stefano Tirelli, da sfogliare Roberto Baggio, Avevo solo un pensiero, edito da Sixteen and the Second e scritto dal nostro amico Stefano Pia. Olimpia. Triangolazione, Baggio, Baggio che converge, Baggio, Baggio, Baggio, finta di Baggio, tira, grandissimo gol di Baggio, grandissima impresa di Baggio. Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio, è gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Ecco Roberto. Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile. Roberto Baggio, Avevo solo un pensiero, è il libro che stiamo sfogliando oggi qui a Olimpia, edito da Sixteen and the Second, scritto da Stefano Piri, che è nostro ospite al telefono. Qui a fianco a me Stefano Tirelli, invece da sempre mio compagno di viaggio qui a Olimpia. Ci siamo fatti subito trascinare dalla memoria, perché nostalgici di un campione come Baggio abbiamo ripercorso già tante delle sue gesta e dei suoi gol più belli. Ma Stefano Tirelli, questo volume e l'intera storia di Baggio ci offrono anche l'esempio di un campione di resilienza. Se c'è stato un campione che per antonomasia è riuscito a buttare il cuore oltre i suoi tanti infortuni dall'inizio alla fine della sua carriera, è proprio il Divin Codino. Ma tu che sei mental coach, ma come si fa, Stefano? Per me lui è un esempio che trasferisco spesso ad alcuni dei miei atleti quando vivono dei momenti particolari, non solo per infortuni ma anche per situazioni varie. Lui ha subito più di 10 grandi infortuni. Se pensiamo che il primo infortunio a Vicenza gli costò a quei tempi un'operazione enorme di 200 punti di sutura anteriore, perché c'era tutto di rotto, dalla capsula articolare, il legamento crociato anteriore, il menisco, il collaterale. E già da lì si denota quello che sarà appunto la matrice, il fil rouge di Roberto Baggio, cioè dover vincere sempre comunque nelle difficoltà rispetto ad una grande carriera che poi riesce a conseguire. Infatti una delle sue grandi problematiche era che era allergico proprio agli antidolorifici e quindi lui doveva sopportare il dolore di terapie, ma del dolore stesso a livello articolare. E tant'è che lui stesso disse una volta, chiese a sua madre di aiutarlo a farla finita. Lui voleva proprio farla finita perché non riusciva più a reggere i dolori, ma poi con la forza interiore e anche con la forza della sua fede buddista, riesce a riemergere e a oltrepassare tutto ciò che sarebbe stato peraltro un ostacolo insormontabile. Stefano Piri, ecco, Stefano Tirelli ci ha ricordato, ha sottolineato ulteriormente questo aspetto emotivo, religioso, spirituale di Roberto Baggio. Ecco, quanto ha inciso questa scelta nella carriera del calciatore Baggio? È una cosa che gli salva la carriera, perché lui incontra il buddismo in un negozio di dischi, figuriamoci, perché il gestore è responsabile della Soka Gakkai di Firenze. Nel momento in cui lui si è trasferito a Firenze dal Vicenza, in sostanza non è più un calciatore, perché nel momento in cui la Fiorentina lo ha comprato, l'infortunio, si verificava l'infortunio che era appena stato raccontato, poi lui si rompe di nuovo il menisco, insomma arriva davvero al punto di pensare di non poter giocare più, forse di non poter essere un calciatore. E con l'incontro con questa fede, con l'incontro con il buddismo, lui riesce a trovare una disciplina mentale di concentrazione sul momento, di concentrazione, di nuova conciliazione con il proprio corpo anche e con quelli che sono i limiti del suo corpo, perché lui in origine è un corpo straordinario. Baggio si ricorda la sua classe, ma non ci si ricorda tante volte che lui quando era giovanissimo aveva un'esplosività fisica, un'esplosività muscolare che era qualcosa di veramente pazzesco. E invece dopo gli infortuni il corpo non è più tanto un alleato per lui, diventa un ostacolo. E per riconciliarsi con questa nuova dimensione di sofferenza, di capacità di portare lo spirito al di là della sofferenza fisica, io credo che il buddismo per lui sia stato un aiuto davvero determinante, divinente. Forse l'anno più bello, stupefacente e sorprendente di questo campione infinito, almeno vado a memoria, è stato quello di Bologna, no? L'anno che lo traghetta lasciando tutto il calcio italiano a bocca aperta, di nuovo in azzurro e quindi ai mondiali del 98. Quel rapporto con Olivieri, amore e odio, raccontaci un po', Stefano Piri, cosa sei andato a scoprire di nuovo a un bel po' di anni di distanza. Intanto noi diciamo nella memoria tendiamo a ricordarci, no? A pensare che Baggio a Bologna sia stata una grande festa per tutta la piazza, per l'allenatore, e invece le cose non andarono affatto così, perché quel Bologna di Olivieri da neopromosso l'anno precedente veniva da un incredibile settimo posto e davvero c'era un legame fortissimo tra questo allenatore carismatico, capacissimo, e un gruppo di giocatori che era privo di grandissime individualità, ma che con lui era davvero riuscito a rendere in una maniera eccezionale. Per cui Olivieri lo dice proprio: io non sopporto che venga Baggio perché ruba al posto uno dei miei ragazzi, questi per me sono come figli, abbiamo uno spirito di gruppo che è il nostro, e Baggio mi rovina tutti gli equilibri. E ci sono quindi una serie di scontri. Baggio in realtà inizia bene individualmente, ma Bologna invece va male, e alla fine del girone d'andata praticamente sta retrocedendo in Serie B, anche se Baggio sta ottenendo il posto al mondiale. A questo punto arrivano due esclusioni che fanno grande clamore, prima col Milan, Baggio viene lasciato in panchina, e per lui è una grande beffa perché è proprio dal Milan che viene, e poi anche con la Juventus. Per fortuna di Baggio, ricorda anche Baggio, che a quel punto rifiuta la panchina, fa una delle poche vere scenate della sua carriera, lascia il ritiro del Bologna e dice io me ne torno a casa. Per fortuna sua, il Bologna viene sconfitto dalla Juventus. Baggio dice se no io probabilmente non avrei più giocato. A quel punto lì riescono a riconciliarsi Baggio e Olivieri, e c'è un girone di ritorno veramente straordinario in cui Bologna ha trascinato da Baggio un andamento da Champions League e finisce di nuovo all'ottavo posto, e Baggio conquista il posto ai mondiali di Francia 98. Stefano Tirelli. Infatti quell'anno col Bologna lui cambia, fa un balzo a livello di carattere, e questo lo si evidenzia in quell'anno anche nel modo in cui esultava. Negli anni precedenti è sempre stato abbastanza discreto, sebbene ovviamente nei momenti di maggiore gioia riusciva a esprimere quella che era una giusta esultanza. In quell'anno a Bologna inizia a chiedere al pubblico di applaudirlo, mette le mani alla Luca Toni, è proprio un altro Roberto Baggio mentalmente e caratterialmente, che poi appunto, giustamente come è stato adesso evidenziato, gli permette anche di raggiungere un obiettivo pur facendo un grande strappo in quel senso. È seria, e aprendosi anche a un dialogo, no? Con quello che poteva essere il suo grande avversario Olivieri, ma che poi diventa invece il suo grande alleato. Ma senti Stefano Tirelli, tu che ne hai viste tanto intorno ai campi di calcio italiani, internazionali, ma che paese è, che calcio è uno che mette in discussione Roberto Baggio? È come se rappresentasse un pochino la nostra incapacità negli ultimi decenni di apprezzare l'arte, perché lui è stato un artista dello sport e del calcio in particolare, e il nostro paese negli ultimi anni si è manifestato così, incapace di valutare, di stimare e di preservare le opere d'arte. Eh sì, o forse ancora più che dei beni degli stessi artisti, no? Perché poi il nostro patrimonio culturale è una nostra ricchezza, è una nostra risorsa, ma non dimentichiamoci di chi poi li realizza, e oggi insomma sappiamo bene quanto sia importante valorizzare proprio questi artisti in tutto e per tutto, e Baggio sicuramente del pallone è stato uno di questi. Stefano Piri, un ultimo fotogramma, un'ultima pagina che vuoi raccontarci del tuo splendido saggio? Ma io credo che insomma un momento, scegliamo un momento che è proprio nella memoria collettiva, che sono le partite di USA 94. Il grande dualismo con Arrigo Sacchi, che lo sostituisce dopo avergli detto che lui per l'Italia come Maradona per l'Argentina, invece lo sostituisce, la sostituzione, Baggio che fa leggere a tutto il mondo il labiale ma questo è matto, gioca male per tutti i gironi, gioca male per 88 minuti la partita contro la Nigeria veramente passeggiando per il campo, però Sacchi decide di non toglierlo, toglie i signori e non lui, lasciando tutti perplessi. in quel momento, e poi questo momento che penso veramente ci ricordiamo tutti, dell'azione Baggio che corricchia fino al limite dell'area, sembra quasi limitante, è anche esausto, gli arriva questo pallone a un minuto dalla fine di una partita che ci sta eliminando, e poi c'è questo tiro di piatto destro che fino nell'angolino e ci porta poi da lì fino alla finale, ecco. Eh sì, l'allenatore forse più razionale, no? Così come veniva dipinto, che accoglie in sé l'artista più grande dopo tutto quello che c'era stato. Direi che miglior conclusione non potrebbe esserci. E allora sì, la conclusione della puntata d'Olimpia, ma lasciamo allora spazio a Roberto Baggio, Avevo solo un pensiero, edito da Sixteen and the Second. È il momento di andare subito a sfogliarci nuovamente, caro Stefano Tirelli, questo bel volume, e di ringraziare Stefano Piri, l'autore, per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. E Stefano Tirelli per avermi accompagnato e averci accompagnato in questo viaggio scoperta dell'universo del Divin Codino. Grazie Dario, e come sempre tanta, tanta energia per tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.